Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo ottavo. La dolcezza verso il prossimo e il rimedio contro l'ira. Il sacro carisma, che per tradizione apostolica la Chiesa usa nelle confermazioni e nelle benedizioni, è composto di olio di oliva e di balsamo. Questi due elementi ricordano, tra l'altro, le due meravigliose virtù che risplendevano in modo particolare nella persona di nostro Signore. Egli ce le ha raccomandate personalmente, quasi che, per mezzo di esse soltanto, il nostro cuore possa essere consacrato al suo servizio e trascinato ad imitarlo. Dice: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore». L'umiltà ci fa crescere in perfezione davanti a Dio e la dolcezza davanti al prossimo. Il balsamo, che come ho detto scende sempre a fondo, raffigura l'umiltà. L'olio d'oliva, che rimane sempre in superficie, raffigura la dolcezza e la bontà, che superano tutte le virtù ed eccellono quali splendidi fiori della carità, che stando a San Bernardo, raggiunge la perfezione quando non è solo paziente, ma anche dolce e affabile. Fa attenzione, Filotea. Questo mistico crisma composto di dolcezza e di umiltà deve trovarsi dentro al tuo cuore. L'abile inganno del nemico, infatti, è quello di far sì che molti si fermino alle parole, agli atteggiamenti esterni di queste due virtù, per cui, nella loro imperdonabile superficialità, pensano di essere umili, pensano di essere dolci, mentre non lo sono affatto. E si tradiscono, perché nonostante la loro cerimoniosa dolcezza e umiltà, alla minima parola leggermente scortese, alla più piccola ingiuria, scattano con un'arroganza inaspettata. Si dice che coloro i quali si sono immunizzati per mezzo del controveleno chiamato comunemente la grazia di San Paolo, se vengono punti o morsicati da una vipera, non si gonfiano, a condizione che la grazia fosse di prima qualità. Quando l'umiltà e la dolcezza sono vere e sincere, capita la stessa cosa. Ci difendono dal gonfiore e dal bruciore che le ingiurie abitualmente provocano nei nostri cuori. Ne consegue che se reagisci mostrandoti orgogliosa, gonfia d'ira e indispettita, allorché sei punta e morsicata dalle male lingue, vuol dire che la tua umiltà e la tua dolcezza non sono profonde e sincere, ma soltanto superficiali, epidermiche. Il santo ed illustre patriarca Giuseppe, quando dall'Egitto rispedì i fratelli a casa del padre, diede loro un solo consiglio. Non adiratevi per via. A te dico la stessa cosa, Filotea. Questa vita terrena è soltanto un cammino verso quella beata. Non adiriamoci dunque per strada gli uni contro gli altri. Camminiamo tranquillamente, in pace con i fratelli e con i compagni di viaggio. Con chiarezza e senza eccezioni ti dico, se ti è possibile, Non inquietarti affatto. Non deve esistere alcun pretesto perché tu apra la porta del cuore all'ira. San Giacomo, senza tanti giri di parole, dice chiaramente: l'ira dell'uomo non opera la giustizia di Dio. Bisogna resistere seriamente al male, reprimere i vizi di coloro di cui abbiamo la responsabilità, con costanza e decisione, ma sempre con dolcezza e serenità. Niente calma un elefante infuriato come la vista di un agnellino, e nulla attenua la violenza delle cannonate come la lana. La correzione dettata dalla passione, anche quando ha basi ragionevoli, ha molto meno efficacia di quella che viene unicamente dalla ragione. Questo perché l'anima ragionevole sa cedere alla ragione, ma rifiuta di piegarsi alla passione e alla tirannia. Di modo che la ragione accompagnata dalla passione è odiosa, perché la sua giusta autorità è avvilita dall'alleanza con la tirannia. I principi, quando fanno visita con un seguito di pace, onorano e danno gioia ai popoli. Ma quando arrivano con i soldati, anche se per il bene pubblico, la loro visita è sempre sgradita, apportatrice di danni. Perché anche qualora riescano a far osservare rigorosamente la disciplina ai loro soldati, non potranno mai riuscire ad impedire che scoppi qualche disordine in cui il civile ha la peggio e viene oppresso. Allo stesso modo, quando domina la ragione e distribuisce pacificamente i castighi, correzioni, rimproveri, anche se lo fa con rigore e severità, tutti le vogliono bene ugualmente, approvano il suo operato. Ma se porta con sé l'ira, la collera, la stizza, che, dice Sant'Agostino, sono i suoi soldati, da amabile diventa piuttosto temibile e il cuore ne esce sempre maltrattato, calpestato. Dice sempre Sant'Agostino: è meglio chiudere la porta all'ira giusta ed imparziale, anche se di minime proporzioni, perché una volta entrata è molto difficile farla uscire, perché entra come un piccolo germoglio ed in brevissimo tempo cresce e diventa un albero, che se poi giunge fino alla notte e il sole tramonta sulla nostra ira, si tramuta in odio e non te ne liberi più. Essa si nutre di mille false convinzioni. Non si è mai trovato un uomo adirato il quale fosse convinto che la sua ira era ingiusta. Meglio imparare a vivere senza collera che volersi servire con moderazione e saggezza della collera, e quando a causa della nostra imperfezione, della nostra debolezza, ci coglie di sorpresa, è meglio respingerla immediatamente che volere entrare in trattative con essa. E sai perché? Per poco che tu le conceda, diventa subito padrona della piazza, fa come il serpente che, dove riesce a far passare la testa, fa passare tutto il corpo. A questo punto tu dirai: ma come faccio a respingerla? Semplicissimo. Al primo allarme raccogli tutte le tue forze, non con precipitazione, con violenza, ma con dolcezza, tuttavia con un serio impegno. Hai notato quello che accade nelle sedute di molti senati e parlamenti? Gli uscieri che gridano «zitti là, zitti qui» fanno più confusione di quelli che vorrebbero far tacere. Allo stesso modo, può capitarci che quando con forza vogliamo reprimere la collera, provochiamo più agitazione nel nostro cuore di quanta non ne avrebbe causata la collera. E il cuore così agitato non riesce più ad essere padrone di se stesso. Dopo questo sforzo compiuto con calma, segui il consiglio che Agostino, già vecchio, diede al giovane vescovo Ausilio. Fa ciò che deve fare un uomo. E se ti capita ciò che l'uomo di Dio dice nel Salmo: il mio occhio è turbato da grande collera. Allora ricorri a Dio e grida: Signore, abbi misericordia di me. E così egli stenderà la sua mano destra e reprimerà la tua collera. Voglio dire che bisogna invocare l'aiuto di Dio quando ci sentiamo agitati dalla collera, a imitazione degli apostoli, sballottati sul mare dal vento e dalla tempesta. Comanderà le nostre passioni e subentrerà una grande calma. Ma non mi stancherò mai di ripeterti che l'orazione che si fa contro la collera in atto che ci sta travolgendo deve essere fatta con dolcezza, con tranquillità, non con violenza. È una norma generale per tutti i rimedi contro il male. Di più, appena ti accorgi che ti sei lasciata andare a qualche atto di collera, rimedia con un atto di dolcezza nei confronti della stessa persona con cui ti sei irritata. Rimedio sovrano contro la menzogna è correggerla subito, appena uno si accorge di averla detta. Per la collera occorre agire nello stesso modo. Appena ti accorgi di esserci caduta, ripara subito con un atto contrario, di dolcezza. C'è un detto che fa proprio al caso nostro. La piaga recente si cura meglio. Fa qualcosa di più. Quando sei calma e senza alcun motivo di collera, fa rifornimento di dolcezza e di affabilità, parlando e agendo nelle tue azioni piccole e grandi, nel modo più cortese che ti sarà possibile, ricordandoti che la sposa, nel Cantico dei Cantici, non solo ha il miele sulle labbra e sulla lingua, ma anche nel petto, dove non c'è solo miele, ma anche il latte. Perché non basta avere la parola dolce nei confronti del prossimo, bisogna averla anche nel petto, ossia nell'intimo della nostra anima. Non basta nemmeno avere la dolcezza del miele, che è aromatico e profumato, e raffigura la dolcezza della conversazione educata con gli estranei. Ma bisogna anche avere la dolcezza del latte verso i familiari e i vicini. In questo, mancano seriamente quelli che sono angeli per la strada e diavoli in casa. Capitolo 9. La dolcezza verso noi stessi. Uno dei metodi più efficaci per conseguire la dolcezza è quello di esercitarla verso se stessi, non indispettendosi mai contro di sé e contro le proprie imperfezioni. È vero che la ragione richiede che quando commettiamo errori ne siamo dispiaciuti, rammaricati. Ma non che ne proviamo un dispiacere distruttivo e disperato, carico di dispetto e di collera. E in questo molti sbagliano grossolanamente, perché si mettono in collera, poi si infuriano perché si sono infuriati, poi diventano tristi perché si sono rattristati e poi si indispettiscono perché si sono indispettiti. In tal modo conservano il cuore come frutta candita a bagno nella collera. Può anche sembrare che la seconda collera elimini la prima, ma in realtà è solo per fare spazio maggiore alla seconda. E c'è di più. Queste collere, queste amarezze contro se stessi portano all'orgoglio. Sono solo espressione di amor proprio che si tormenta e si inquieta per imperfezioni. Il dispiacere che dobbiamo avere per le nostre mancanze deve essere sereno, ponderato, fermo. Un giudice punisce molto meglio i colpevoli quando emette sentenze ragionevoli in spirito di serenità, che quando procede con aggressività e passione. In tal caso non punirebbe le colpe secondo la loro natura, ma secondo la propria passione. Allo stesso modo noi puniamo molto meglio noi stessi se usiamo correzioni serene, ponderate, non aspre, non precipitose, non colleriche. Tanto più che queste correzioni fatte con irruenza non sono proporzionate alle nostre colpe, ma alle nostre inclinazioni. Per esempio, chi è attaccato alla castità andrà su tutte le furie e sarà inconsolabilmente amareggiato per la minima colpa contro di essa, e poi farà le matte risate per una gravissima maldicenza commessa. Per contro, chi odia la maldicenza andrà in crisi per una leggera mormorazione e non darà peso ad una grave mancanza contro la castità, e così via. E questo capita perché la coscienza di costoro non giudica secondo ragione, ma secondo passione. Credimi, Filotea, le osservazioni di un papà, se fatte con dolcezza e con cordialità, hanno molta più efficacia per correggere il figlio, più efficacia della collera e delle sfuriate. La stessa cosa avviene quando il nostro cuore è caduto in qualche colpa. Se lo riprendiamo con osservazioni dolci e serene e gli dimostriamo più compassione che passione, lo incoraggiamo a correggersi. Il pentimento sarà molto più profondo e lo compenetrerà più di quanto non farebbe un pentimento pieno di dispetto, di ira e di minacce. Per conto mio, posso che ci tenessi molto a non cadere nel vizio di vanità, e ciò nonostante ci fossi caduto, e seriamente, non vorrei correggere il mio cuore con parole come le seguenti: «Guarda quanto sei miserabile, abominevole. Dopo tante risoluzioni, guarda come ti sei lasciato travolgere. Muori di vergogna, non azzardarti più ad alzare gli occhi verso il cielo. Svergognato, traditore, cieco, sleale con il tuo Dio». E simili altre cose. Io invece procederei ragionevolmente, con compassione. Coraggio, mio povero cuore, eccoci caduti nella trappola da cui avevamo promesso di stare lontano. Adesso rialziamoci e liberiamocene per sempre. Invochiamo la misericordia di Dio e speriamo in essa. D'ora in poi ci darà la sua assistenza per renderci più decisi. Rimettiamoci in cammino con umiltà. Coraggio, d'ora in poi stiamo in guardia. Dio ci aiuterà, ce la faremo. E così su questa correzione vorrei costruire un solido e fermo proposito di non ricaderci più, prendendo i mezzi idonei a tale fine, compreso il parere del mio direttore spirituale. Se poi qualcuno pensasse di non essere sufficientemente scosso da questo tipo di correzione, potrebbe servirsi di un richiamo o di un rimprovero duro e forte per provocare una vergogna profonda, purché, dopo aver rudemente sgridato e strapazzato il proprio cuore, chiuda con una consolazione, ponendo termine alla sua amarezza, al suo cruccio, con una dolce e santa fiducia in Dio, ad imitazione di quel grande penitente che, vedendo un'anima afflitta, la risollevava in questo modo. Perché sei triste, anima mia? Perché mi turbi? Spera in Dio. Io lo benedirò ancora perché è la salvezza del mio volto e il mio vero Dio. Dunque, rialza dolcemente il tuo cuore quando cade. Umiliati grandemente davanti a Dio, alla conoscenza della tua miseria. Ma non meravigliarti della tua caduta. È naturale che l'infermità sia malata, che la debolezza sia debole, che la miseria sia misera. Disprezza con tutte le forze l'offesa che Dio ha ricevuto da te. E con coraggio e fiducia nella sua misericordia, rimettiti nel cammino della virtù, quella virtù che avevi abbandonato. Capitolo decimo. Le occupazioni vanno affrontate con attenzione, ma senza precipitazione e fretta eccessiva. La cura e la diligenza che dobbiamo mettere nelle nostre occupazioni non hanno nulla in comune con l'ansia, l'apprensione, la fretta. Gli angeli hanno cura della nostra salvezza e la procurano con diligenza, ma senza ansia, senza apprensione, senza fretta. La cura e la diligenza sono espressione della loro carità, mentre l'ansia, l'apprensione e la fretta sarebbero contrarie al loro stato di beatitudine. Giacché la cura e la diligenza possono essere compagne della serenità, della pace e dello spirito. Non invece l'ansia e la preoccupazione, e ancora meno l'angustia precipitosa. Sii dunque accurata e diligente in tutte le responsabilità che ti saranno affidate, Filotea. Se Dio te le ha affidate, tu ne devi avere grande cura. Ma se ti è possibile, non cadere nell'ansia, nell'apprensione, ossia non affrontarle con cuore inquieto, ansioso, tormentato. Non agire con precipitazione nel compimento dei tuoi doveri. La precipitazione turba la ragione, turba il giudizio e ci impedisce di compiere bene proprio quello verso cui ci precipitiamo. Quando nostro Signore riprende Marta, dice: Marta, Marta, sei ansiosa, ti agiti per tante cose. Vedi, se ella fosse stata semplicemente premurosa, non si sarebbe agitata. Ma è proprio perché era preoccupata, inquieta, che si affretta, si agita. Ed è proprio questo che nostro Signore le rimprovera. I fiumi che scorrono dolcemente nella pianura portano grandi battelli con ricche merci. Le piogge che cadono dolcemente sulla campagna la rendono feconda di foraggi e di grano. Ma i torrenti e i corsi d'acqua che precipitano a valle con rapide e cascate rovinano le campagne circostanti e non sono utili al traffico. Lo stesso fanno le piogge violente, tempestose, che travolgono i terreni lavorati e rovinano i pascoli. Un lavoro fatto con violenza e con precipitazione non riesce mai bene. Un antico proverbio dice: bisogna affrettarsi con calma. Colui che affretta, dice Salomone, corre il rischio di inciampare e di urtare contro tutto. Facciamo sempre abbastanza presto quando facciamo bene. I fuchi fanno molto più rumore e si spostano con molta più fretta delle api, ma producono solo cera, non miele. Più o meno fanno la stessa cosa coloro che si affrettano con un'ansia bruciante e con una apprensione disordinata. Finiscono con il fare poco e male. Le mosche non ci danno noia per la mole, ma per il numero. Allo stesso modo si può dire che le occupazioni importanti non ci mettono in agitazione come le piccole, perché queste si presentano molto numerose. Accetta in pace le incombenze che ti capitano. Cerca di portarle a termine con ordine, una dopo l'altra. Se vuoi farle tutte in una volta, disordinatamente, farai solo sforzi che ti angustieranno, ti prostreranno lo spirito, e finirai quasi sempre schiacciato sotto il peso, senza risultato. In tutte le tue occupazioni appoggiati completamente alla provvidenza di Dio, che è la sola che possa dare compimento ai tuoi progetti. Tuttavia, da parte tua, lavora dolcemente per cooperare con essa. Sii certa che se confidi in Dio, il risultato che conseguirai sarà sempre il migliore per te, sia che ti sembri personalmente buono che cattivo. Fa un po' come i bambini che con una mano si aggrappano a quella di papà e con l'altra raccolgono le fragole e le more lungo le siepi. Anche tu fa lo stesso. Mentre con una mano raccogli e ti servi dei beni di questo mondo, con l'altra tieniti aggrappata al Padre Celeste, volgendoti ogni tanto verso di Lui, per vedere se le tue occupazioni e i tuoi affari sono di suo gradimento. Fa attenzione a non lasciare la sua mano e la sua protezione, pensando così di raccogliere e di accumulare di più. Se il Padre Celeste ti lascia, non farai più nemmeno un passo, ma finirai subito a terra. Voglio dire, Filotea, che quando sarai in mezzo agli affari e alle occupazioni ordinarie, che non richiedono un'attenzione molto accurata, assidua, guarda a Dio più delle occupazioni. Quando gli affari sono così importanti che richiedono tutta la tua attenzione per riuscire bene, ogni tanto dà uno sguardo a Dio, come fanno coloro che navigano in mare, i quali per raggiungere il porto previsto guardano più il cielo che la nave. Così Dio lavorerà con te, lavorerà in te, lavorerà per te. E così il tuo lavoro sarà accompagnato dalla gioia. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.